Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, cari amici, una puntata speciale, una puntata che riguarda tutti noi, perché nella vita di tutti noi ci sono fatti, situazioni che lasciano il segno. A volte sono così fondamentali e potremmo dire definitivi da divenire veri e propri passaggi di crescita, tappe che ci rendono differenti da come saremmo stati se non li avessimo vissuti, veri e propri, lasciatemi ridefinire così, punti di snodo della nostra autobiografia. Oggi è proprio di questi passaggi che voglio parlare insieme a voi. Qual è stato il passaggio di crescita più importante della vostra vita? Quell'evento, quella situazione, quell'accadimento che ha cambiato il corso degli eventi, oppur non cambiando nulla, ha dato un nuovo significato a tutto, ha messo tutto in prospettiva. Qui in studio con me c'è Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, ho detto un tema che riguarda tutti noi, perché tutti noi, no? Ci troviamo, ci confrontiamo con delle situazioni che ci cambiano, volenti o nolenti. Sì, a me piace molto usare la metafora del viaggio in treno, perché fondamentalmente la vita è quella cosa lì. Tu sali su un treno, sai qual è la partenza, in qualche modo sai che ci sarà l'arrivo, e ogni stazione però ti porta nuovi contenuti, nuove immagini, nuovi significati nella vita. Oggi usiamo proprio la metafora della stazione. Quali sono state le stazioni più importanti che abbiamo incontrato viaggiando sul treno della nostra vita? Una domanda che giro subito ai nostri ascoltatori, che possono scriverci a esserebenessere@radio24.it oppure sul nostro profilo Facebook. Intanto in linea abbiamo due ospiti speciali. Li abbiamo scelti perché hanno scritto due libri differenti, eppure che oggi si integrano in modo perfettamente complementare per il tema che abbiamo scelto di trattare oggi con voi. Per introdurvele, prima di svelarvi il loro nome, abbiamo scelto un breve estratto di ciascuno dei loro libri. Ascoltate il primo. Era finita un'epoca, si era conclusa una prima fase della mia vita. Me ne andavo dal luogo dove ero nato, dove probabilmente si era formato gran parte del mio carattere e dove avevo scoperto le mie prime passioni. Fu un dolore crudo. Dalla nostra nuova casa di via Paganini, per andare a scuola, io e la mamma percorrevamo in bici una stradina sterrata, che si snodava in mezzo ad alte siepi ed era costeggiata da fossi di acqua corrente che quando pioveva si riempivano ancora di più. In inverno, invece, quando nevicava e faceva davvero molto freddo, andavo a scuola a piedi e insieme ai miei compagni ci servivamo dei fossi ghiacciati come piste di pattinaggio. Ci sembrava così di arrivare più in fretta a scuola. Quello che abbiamo appena ascoltato è un brano tratto dal libro pubblicato per Mondadori da Red Canziano, uno dei mitici Pooh, che è in linea con noi. Red, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, che effetto sentirlo leggere da una voce così bella. Vero? È bello, l'hai sentito, mi sa che lo compro. Il nostro è il nostro Mario Nutarelli. Sì, glielo consiglio. Il titolo, caro Red, è Ho visto 60 volte fiorire il calicanto. Titolo, ahimè, legato all'età, per i 60. Invece il calicanto è una scelta di un fiore coraggioso, un fiore al quale ho un po' paragonato la mia vita, un fiore che sboccia a gennaio quando tutti gli altri stanno ancora dormendo. Ho sempre un po' impostato la mia vita così, sempre, ho cercato di stare avanti un metro rispetto agli altri, ma non per fare il fenomeno, ma perché volevo capire prima, volevo arrivare al cuore della gente, mi piaceva incontrare, conoscere, come quella descrizione del treno. Io quando sono in treno sono felice quando si ferma alle stazioni, perché spero di incontrare delle persone che mi arricchiscono. Ma come vi avevo anticipato, in linea con noi c'è una seconda ospite, sempre per Mondadori, ha pubblicato di recente il volume I dolori che ci cambiano. Ne ascoltiamo insieme un piccolo estratto. Non so se l'esperienza che ho vissuto mi abbia rafforzato. Non lo so davvero. E comunque, non mi sono mai posta in tale ottica di bilancio. So per certo che mi ha cambiata. Ho cercato di raccontare in che modo e dove, soprattutto, mi abbia cambiata. Non mi piace pensare che il dolore sia un maestro. L'ho già detto. Non ha intenzione di insegnarci nulla. Accade. E il suo accadere ci pone di fronte a noi stessi. Con la nostra forza e la nostra debolezza, con il nostro coraggio e la nostra paura, con la nostra speranza e il nostro terrore. Non saprei dire altro e penso non sia necessario dire altro. Saluto con molto piacere la dottoressa Anna Salvo, psicoterapeuta e autrice dei Dolori che ci cambiano, di cui oggi usiamo in modo particolare il significato che sta nascosto nel sottotitolo Quando soffrire aiuta a crescere, che è proprio il vero messaggio del libro. Buongiorno dottoressa Salvo. Buongiorno a tutti. A lei abbiamo dato la voce di Alessandra De Luca. Grazie, era anche per me emozionante sentire una pagina che mi è costato molto scrivere letta così bene. Alberto, noi abbiamo scelto entrambi i libri, abbiamo deciso di accoppiarli nella trasmissione di oggi perché c'è un fil rouge che li tiene uniti. Sì, perché in realtà il libro di Red Canziana è un po' il libro che non ti aspetti. Tu leggi la storia e la narrazione di uno dei quattro mitici Pooh, immagini di trovare dentro tutta una vita sul palco e invece quello che scopri è che lui ti racconta esattamente tutta la vita fuori dal palco e quindi lo prendi per mano proprio dalla nascita all'oggi e vedi tutto quello che non hai visto, vedi la persona e non il personaggio, e nella vita della persona scopri tutto un mondo di sfide che non sono quelle dello spettacolo, del successo. C'è proprio la necessità di diventare competenti nella gestione della propria esistenza. Nel libro di Anna Salvo trovi l'altra parte, cioè trovi lo studio, l'analisi di una sezione, di un momento molto faticoso della vita di alcune persone che per lei possono essere pazienti, ma c'è proprio un passaggio che riguarda la sua stessa esistenza e in qualche modo entri in percorsi faticosi e di nuovo cerchi di intuire quali sono quelle variabili, quali sono quelle strategie o quelle modalità che ti permettono di diventare competente nella gestione di sfide cruciali della tua vita. Quindi esploreremo sia la gioia che il dolore. La parte della gioia ce n'è molta nel libro di Red e quella del dolore che poi è l'altro lato della medaglia che viene più esplorato nel libro di Anna Salvo. Red, partiamo da te. Perché Alberto mi ha suggerito tre contributi musicali che ascolteremo nel corso della trasmissione che ci aiuteranno a selezionare alcuni dei temi forti del percorso del calicanto, ovvero della tua vita. Il primo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. E questa è una meraviglia perché è Yesterday dei Beatles. E in realtà, quando con Nicoletta cercavamo di pensare qual era il primo contributo musicale che avremmo offerto a Red per una riflessione, siamo stati sui Beatles perché fanno proprio da sfondo a quella prima stagione, quella prima parte della sua vita, raccontata con molta verità e molta semplicità dentro i primi capitoli del libro. Red ha proprio la capacità di farci vedere da dove è partito, ed è la sua, è una famiglia molto povera, una famiglia che si tira sulle maniche, che sta dentro alla fatica della quotidianità, e lui è un bambino che osserva tutto. È magnifico vedere come si muove, per esempio, nei corridoi e nelle stanze di questa grande villa dove vengono ospitate le famiglie, molte famiglie povere nella sua città, e lui fa di tutto tesoro e con la stessa attenzione e sensibilità si muove poi nel mondo della natura, e qualche intuizione l'abbiamo già avuta ascoltando l'estratto dal libro, e con la stessa sensibilità e attenzione lui comincia a intercettare i segnali di novità che provengono dal mondo della musica, che diventerà, prima che essere il suo mestiere, la grande passione e il grande punto di snodo della sua esistenza. È vero, Red, quello che racconta Alberto è davvero un tratto tuo proprio che emerge da tutto il tuo libro, una straordinaria positività, una resilienza e una resistenza costruttiva che forse, così per come ti racconti, forse è ancora per te più forte nella tua vita fuori dal palco che in quella sul palco. Ma io in generale penso che la vita sia una e che vada vissuta e goduta e gustata e assaporata in ogni attimo, per cui io fin da piccolo ci ho riflettuto mentre scrivevo questo libro, non ho mai provato la sensazione della noia, io non ho mai vissuto questo momento di noia in vita mia, ma neanche quando andavo a scuola, perché comunque mi inventavo qualcosa da fare sempre, e quindi questo modo di vivere mi ha fatto affrontare le cose sempre col sorriso, perché non so mai cosa succederà in realtà dei miei progetti o dei miei sogni, però qualcosa succede sempre, allora c'è sempre un coinvolgimento importante, bello, emotivo. Poi questa canzone dei Beatles che abbiamo ascoltato, in realtà io a 16 anni stavo facendo questo, perché ancora non suonavo con un gruppo, papà mi aveva regalato questa prima chitarra a 5.000 lire a rate, era una chitarra acustica con la quale avevo cominciato a fare i primi accordi, però nel frattempo facevo dei festival che c'erano in giro così da queste parti, nel Veneto, per giovani cantanti, no? E feci questo festival che era importante, era organizzato tra le cantine sociali di Conegliano Veneto, si chiamava lo Stroppolo d'Oro, lo Stroppolo in Veneto sarebbe il Duracciolo, no? Sì. Però lo presentava addirittura Pippo Baudo la serata finale, per cui voglio dire era una cosa, certo, a livello regionale importante, solo che durante le eliminatorie me la giocavo sempre con sto ragazzo che cantava un pezzo di Battisti, no? E io dico, io cantavo Pugni chiusi dei Ribelli, dico no, io non posso perdere con questo, poi è già vecchio, ha 20 anni, io ne avevo 16, capito? Questo era già vecchio, lavorava nell'azienda di suo padre, io invece, insomma, avevo deciso che quella era la mia vita, io dovevo cantare da grande, doveva essere la mia vita, per cui ho tirato fuori l'asso e l'ultima sera ho cantato Yesterday dei Beatles. E insomma ho fatto il mio lavoro e ho vinto. E hai vinto, hai detto aspetta qua che li tiro fuori. E ho dato la possibilità a Pippo, uno in più, di poter dire questo l'ho scoperto io. Come dice. Sei troppo simpatico. Dottoressa Salve, invece nel suo libro una cosa che mi ha colpito molto, la sua volontà di condividere un percorso e un passaggio molto faticoso della sua vita. Secondo me, me lo lasci dire, forse è il capitolo più bello del libro. Lei racconta l'ingresso, l'uscita dal tunnel della malattia e nelle parole piene di buio che raccontano la sua vicenda si trova però la grande luce che illumina il racconto di chi può sopravvivere ad un grande dolore, la luce di una nuova consapevolezza, la luce di chi grazie a quella tremenda fatica ottiene maggiore consapevolezza e riesce a fare un tesoro anche di tanto dolore, perché si può fare anche, si riesce a fare questo passaggio anche se faticoso e anche se raccontato sembra impossibile. L'idea del libro è quella che il dolore sia una specie di strumento ottico, che l'immagine non è mia, è di Marcel Proust, è un occhiale che ci permette di rileggere e vedere diversamente la nostra vita affettiva, no? Io ho cercato di applicare quest'idea anche al modo in cui sono passata, diciamo, nel tunnel di una malattia molto seria e come in qualche modo ne sono uscita. Per me è importante non tanto far vedere che cosa ci insegna il dolore, perché non ho l'idea che sia un maestro, come è stato così bene letto dall'attrice. Per me è molto importante questa idea che il dolore non è qualcosa da cui si guadagna necessariamente qualcos'altro, è un'esperienza, è un passaggio, soprattutto il dolore relativo alla perdita non necessariamente come separazione da una persona cara. Uno dei racconti del libro, una delle storie riguarda un uomo che perde il lavoro, ecco. Cioè, come attraverso questa esperienza di perdita si riesce a come dire, vedere altrimenti quella che è stata il proprio romanzo familiare, no? Ciascuno di noi si racconta la propria storia e pensa che quella sia la verità, è estremamente convinto di questo, e allora come questa verità può essere rivisitata e come alcune questioni possono essere lette in un altro modo, viste in un altro modo, per esempio la relazione con un padre difficile o con una madre difficile, o che tipo di figli siamo stati, o la relazione con i propri fratelli, insomma quella che è la nostra storia affettiva. Io credo che il dolore, se ci serve, serve a questo. È un passaggio di crescita, che è un po' il titolo della trasmissione di oggi. Spesso si cresce di più attraverso esperienze dolorose, ma anche le esperienze positive aiutano a crescere. Assolutamente. Cioè, quello che credo è che nella vita ciascuno di noi ha proprio quelle stazioni di cui parlavamo all'inizio, cioè dei punti di snodo dove è necessario fare un duplice lavoro. Un primo lavoro è sulla continuità della propria identità, cioè io devo continuare a rimanere me stesso dentro a tutti gli eventi che la vita mi fa vivere, che mi succedono e mi accadono, e alcuni li scelgo, li posso scegliere, altri accadono, il dolore accade, punto. Il secondo aspetto, invece, la seconda dimensione, è però fare occasione delle esperienze che vivi, perché ti offrono una potenzialità di trasformazione, quindi tu continui ad essere quello che sei, ma allo stesso tempo attraverso quello che ti succede puoi in qualche modo trasformare la tua identità, il tuo vero se stesso, farla in qualche modo, usiamo la metafora del videogioco, farla arrivare a un livello superiore del videogioco. E questo secondo me è proprio la creatività meravigliosa dell'esperienza del vivere. Si impara o si nasce? Ma io credo che, come dice Red Kanzian, devi avere una buona predisposizione, cioè forse serve davvero tanto nascere con la possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché ti dà una spinta in più. Se tu parti dall'idea del bicchiere mezzo vuoto, a quel punto tutto ti uccide, tutto ti schiaccia, tutto ti fa soffrire, tutto ti blocca lì. Red, tu sei nato così, un po' col bicchiere mezzo pieno. Ma io sono nato col bicchiere completamente vuoto, ma ho avuto un padre vicino talmente un gigante, perché non aveva nulla, la vita gli ha tolto tutti i sogni, io lo racconto nel libro, glieli ha spenti, da quello del pugilato a quello del ciclismo, all'andata in Australia che stavamo per partire come emigranti e ci hanno fermato sulla passerella della nave perché lui aveva avuto un incidente e non poteva espatriare per 5 anni quando guidava il camion, poi l'operazione, gli hanno tolto un rene per cui non ha potuto nemmeno fare più l'autista, che a lui piaceva tantissimo viaggiare, mi raccontava delle storie bellissime, portava a casa delle cose dal sud Italia, che una volta partiva e stava via 15 giorni perché non c'erano le autostrade e i camion non erano veloci con l'aria condizionata come quelli di adesso, per cui ho avuto questo padre che mi ha dimostrato che per lui, per la famiglia, era sempre in prima linea, è andato a Marcinelle in miniera a lavorare pochi mesi prima che ci fosse la grande tragedia di Marcinelle, per cui, cioè, con un padre così, io il bicchiere automaticamente l'ho visto riempirsi, e secondo me è andato anche oltre la metà, capisci? Perché la vita, io non credo per esempio alla fortuna, io credo che la fortuna l'abbiano inventata quelli delle sale da gioco o quelli che devono fare qualche imbroglio, la fortuna siamo noi, e anche la sfortuna siamo noi di noi stessi, perché se affrontiamo la vita nel modo sbagliato ci tiriamo dietro tutte le negatività. Io lo dico nel libro, io scappo quando vedo una persona negativa perché mi mette ansia, sto male per lei, ma sto male per me. È un po' l'effetto, no? che producono le persone che sono molto negative, su cui però noi vogliamo, a cui vogliamo dare anche qualche messaggio, perché si può, no? Si può imparare la resilienza, si può imparare a fare anche di trasformare una difficoltà in un'occasione di crescita. Essere e benessere. Perché adesso sto con te, noi due avevamo fino a ieri i nostri amori veri, sembravano per sempre, adesso invece siamo qui e nessuno capirà che sto con te, e nonostante tutto e tutti io corro da te. Un grande successo dei Pooh, di cui tu, Red, parli nel tuo libro, perché dietro questa canzone, questo testo, c'è una storia. Sì, e qui questa è una canzone che ho scritto nel 1992, ho scritto la musica e Stefano Dorazio ha fatto il testo. Stefano è stato un po' il biografo di questo cambiamento, di questo secondo tempo della mia vita, dove mi sono separato da Delia, che è stata la mia prima moglie, con la quale ho fatto una figlia straordinaria che si chiama Chiara, e che peraltro canta anche lei, e mi sono innamorato di Beatrice, Bea, che è mia moglie, adesso dal 2000, ma soprattutto è l'amore finale, come lo chiamo io nel libro, perché io credo che, a differenza di tante teorie che ci sono, che l'amore grande arriva una volta solo, io credo che l'amore arriva a mille volti, no? È un po' come un fulmine, sai dove cade quando è caduto, prima non puoi prevederlo, e quindi quando ti arriva addosso può essere un tipo di amore, un altro tipo di amore, però poi arriva quello finale, che non può arrivare a 30 anni, l'amore finale arriva quando hai anche sommatizzato certe gioie, certi dolori, comunque certe emozioni che l'amore ti può dare, e arriva a un certo punto quando tu non lo sai, quando non te l'aspetti, come tutte le cose impreviste, e ti cambia la vita, perché Bea è entrata nella mia vita come un ciclone, eravamo due coppie sposate, ecco perché dico, gli amici adesso avranno tante cose da parlare, poi mi riempiranno di consigli e di rimproveri, perché questo succede quando ti separi, si dividono gli amici, un po' vanno da una parte, un po' vanno dall'altra, però se è una scelta seria, alla fine riesci a convincere tutti, anche gli ex, perché pensa al nostro 10° anniversario di matrimonio con Bea, avevamo sia la mia prima moglie che il suo primo marito, ed eravamo tutti insieme, sereni, felici, perché abbiamo dei figli da condividere, perché non ha senso farci la guerra, perché se le scelte sono serie e non sono così, certo, colpi siete, di testa, siete riusciti a fare bene questi passaggi, non sempre sono passaggi comunque faticosi, che ma ci siamo impegnati producono per i figli, perché io avevo Chiara che aveva 2 anni e mezzo, Bea aveva Philip che aveva 9 anni, certo. Per cui loro non avevano certo colpe delle nostre scelte, per assolutamente cui... però questi sono passaggi che rappresentano proprio una svolta, l'amore è in questo, Alberto. Sì, queste sono proprio quelle trasformazioni che avvengono apparentemente in rottura con la nostra storia precedente, in cui noi dobbiamo invece trovare il modo per trasformarli in possibilità di continuità, oltre che di trasformazione di noi stessi. E la grande fatica, tra l'altro, nell'attraversare questo passaggio, proprio nel guadare verso il secondo tempo della sua vita, anche affettiva, come dice Red, è raccontata bene nel libro, e direi che è una fatica in qualche modo simile, parallela o comparabile a quella che la dottoressa Salvo fa nel momento in cui sceglie di dedicare uno dei 5 capitoli del suo libro alla sua storia di vita. La cosa che mi ha molto colpito come medico, come psicoterapeuta, è che la dottoressa Salvo fa un'operazione apparentemente impossibile per una psicoterapeuta di formazione psicodinamica, psicanalitica come è lei, cioè disvela se stessa in una fase molto molto complessa della sua esistenza e mette a disposizione la sua storia, dei suoi lettori, probabilmente anche di qualche suo paziente. Come mai ha fatto questo grande salto e che cosa le ha detto la comunità, per esempio, dei professionisti con cui lei collabora rispetto a ciò? Beh, nel nostro mondo si parla spesso del dolore mentale, si è scritto molto, no, del dolore mentale che questo mestiere comporta, no? L'esposizione alla sofferenza altrui. E per me era importante parlare di questo, del mio dolore, no? Nel senso che non ho rivelato nulla di nuovo, i miei pazienti, quelli che avevo in carico in quel periodo, lo hanno saputo tutti direttamente da me, ciò che mi stava accadendo. E quindi non c'è stato nessun modo di, come dire, aprire uno spiraglio di una porta per far vedere che cosa si nascondeva. Questa malattia era stata annunciata a loro, no? In quel periodo io non ho preso pazienti nuovi, cioè proprio perché non ne avevo neanche la forza in qualche modo. E quindi ho pensato che questa esposizione di me, che spero non sia una sovraesposizione, ma che sia semplicemente un raccontare con tutta l'onestà di cui sono stata capace, come sono passata in una notte, ecco, nella notte del dolore, della sofferenza. Spero che questo non disturbi e non abbia disturbato né i pazienti che ho avuto in carico né quelli che ho in carico attualmente, anche perché sono stata abbastanza attenta, cioè a non, in questa esposizione interiore, a non accentuare come dire, un ritratto di me troppo particolareggiato della mia vita o delle mie condizioni reali di vita, ecco. Io ho ritenuto che fosse un gesto giusto. E devo dire, secondo me, che questo rende anche molto umano e molto molto più normale, molto più vivo, molto più reale il terapeuta. Proprio in questo, nell'ultimo numero di una rivista di psicoterapia della SIC, della Società Italiana di Terapia Cognitivo-Comportamentale, c'è proprio un articolo dedicato a che cosa significa disvelare parte di se stesso al proprio paziente. Credo che alla fine ripartiamo da quello che diceva Red, cioè è molto importante non quello che ci accade, ma come noi ci raccontiamo quello che ci accade. E questo è un po' quello che succede dentro la stanza del terapeuta, ma anche dentro alla vita. Noi non siamo solo la nostra storia, noi siamo quello che diciamo della nostra storia. Allora, io direi che adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma prima abbiamo proprio un po' di tempo per chiedere a Red. Le esperienze dolorose spesso allontanano, perché tante volte ci si sente sole, sono difficili da condividere. Tu come le approcci, come le utilizzi anche per creare delle relazioni e per aiutare magari un amico a superare un momento di difficoltà? Ma io credo che tutto ciò che ci capita nella vita un pochino ce lo siamo attirato, un pochino dobbiamo comunque condividerlo con chi ci sta intorno. Trovo che c'è un vecchio detto che ciò che avviene conviene, che è un po' ottimistico e può sembrare superficiale, ma penso che quando si chiude una porta, insomma, se ne può aprire veramente un'altra, può essere anche una porta più grande. Sì, infatti si dice, Red, si chiude una porta, si apre un portone. Vedi. Io ho avuto sì, insomma, le batoste che tante persone, il libro lo racconto, io ho fatto una tournée con un melanoma sulla schiena da dover aprire a fine tournée, mi ha detto fai la tournée tranquillo, a fine tournée apriamo, io con tranquillità ho eseguito il compitino e ho fatto la tournée, poi l'ho aperto, poi ho aspettato i 12 giorni per vedere se il linfonodo sentinella era intaccato, se c'erano metastasi, tutte queste cose che ti fanno capire che tutto quello che tu fai la sera sul palco con migliaia di persone, applausi, l'importanza che deve avere, non certo. L'importanza che molti gli danno, che è un'importanza assolutamente cioè fare di quello che avviene lì, che certo. È un'emozione che vivi in quel momento. La vita è un'altra cosa, ecco, la vita è quando si scende dal palco, quando devi farti operare, quando devi affrontare le cose, quando ti lascia un figlio, quando vivi le emozioni, quando ti muore un padre, quando ecco, e tutti vita. Noi, Red, abbiamo un palco in cui ci muoviamo, che è quello dell'ambiente di lavoro, magari di alcune relazioni, e abbiamo una parte che è fuori dal palco. Essere e benessere. Più di quelle mani che colorano i tuoi giorni. Ma se vuoi, sai, posso restare in disparte. Io saprò di certo poi rischiarare quei sogni tuoi. Ora provaci, almeno provaci. Red, anche questo è un passaggio. Chiara ha scelto di cantare, canta e insomma io penso che anche per un padre come te che sul palco ci hai vissuto e hai avuto grande successo, condividere, no, questo percorso, questa scelta, sia anche questo un passaggio. È un passaggio, noi abbiamo scelto e sono molto orgoglioso di mia figlia perché ha una grande dignità, abbiamo scelto fin dall'inizio che noi due non avremmo fatto nulla insieme fino a quando la gente non dirà quello è il papà di Chiara Canzian e non il contrario. Nel senso che non voglio forzare, lei poi è una che si vuole fare le cose da sola, suona tutti gli strumenti, si scrive le canzoni, se le arrangia, è sempre indaffarata, affitta l'impianto per guadagnare dei soldini, fa le torte e le vende al ristorante sotto casa, vive a Milano da sola perché vuole essere indipendente. Insomma, e ha 22 anni. Ecco, qua c'è tutto l'orgoglio del papà. No, ma sai cosa? È un po' la mia storia, no? Perché io sono arrivato a Milano con il mio primo complesso e tutti gli altri sono tornati a casa perché non avevano voglia di di fare i sacrifici. Io avevo 1500 lire di budget al giorno per vivere, e che si traducevano in pane, latte, un pezzo di formaggio. Allora non ero vegano e questa era la mia vita, e dormivo in pensioni frequentate da gente che non era dello spettacolo ma faceva altre cose, insomma. Certo. Ecco. Alberto. Sì, tutti gli episodi raccontati nel libro, e credo che questa grande tenerezza e questo grande orgoglio che intuiamo nelle parole di Red, e che si legge benissimo fra le righe dei capitoli dedicati alla sua paternità, siano proprio un po' anche la summa della puntata di oggi. Cioè, i libri di cui stiamo parlando non insegnano la vita, i libri raccontano la vita, ma nel raccontare la vita ognuno riesce probabilmente a cogliere poi quegli aspetti che gli servono e che sono realmente educativi, pedagogici per la propria esperienza. In questo senso forse possiamo ascoltare un estratto di nuovo dal libro di Anna Salvo, che ci aiuta in conclusione a tirare un po' le fila. Forse nulla più del dolore ci getta nel deserto, nella prigionia del nostro io. Il suo dilagare alza una sorta di muro, una distanza tremenda che fa sentire lontana ogni altra persona. E infatti non è né esagerato né esasperato rilevare come un senso di solitudine angoscioso e incolmabile accompagni e segni il nostro precipitare o scivolare in quella notte nera che ben rappresenta lo spettro del dolore psichico. Chiunque abbia attraversato tale esperienza sa che essa porta con sé il sentimento di una distanza dagli altri non colmata neppure dal ricevere il più gentile dei gesti. Mi riferisco, ovviamente, a ciò che si percepisce quando il dolore avvolge e isola un individuo in una sorta di bolla che separa e in qualche modo allontana anche dalle persone più prossime. Dottoressa Salvo, con la consapevolezza di oggi, sapendo come sono andate le cose, che emozione le dà riascoltare queste parole? Si crea sempre una certa distanza, no? Almeno per me accade così, forse una forzatura. Mi sembravano ben scritte, quasi fossero le parole di un altro, no? Le ho ascoltate con una curiosità anche, devo dire, ed è sempre comunque una grande emozione, e ci dà anche forse il senso che un libro poi è anche una creatura che va per il mondo, no? Cioè, non è quando diventa un oggetto, un insieme di pagine, e come un bambino che si allontana da noi, comincia a camminare, comincia a poter andare, no? È un pezzo di noi e non lo è allo stesso momento. E volevo dire un'altra cosa, che mentre parlava Red, parlavate voi in studio, io pensavo ad una frase bellissima che ho ascoltato da un grande psicanalista ancora vivente, André Green si chiama, alcuni anni fa a un congresso ad Atene. Lui ha cominciato la sua relazione dicendo: io sono il racconto della mia storia. E poi si è corretto e ha detto: io sono il mio racconto della mia storia, no? E in qualche modo è molto bello, sono molto belle queste parole, in cui si vede come una gran parte della nostra identità si gioca sul modo in cui noi ci raccontiamo la nostra storia, le gioie e i dolori della nostra storia. Allora, io in chiusura vorrei scegliere, li abbiamo scelti, due simboli che rappresentano ciascuno dei libri. Il bonsai per Red, Alberto. E abbiamo scelto il bonsai perché è un oggetto, è un essere vivente, scusate, piccolissimo, che in quel piccolo ha l'infinità della cura incredibile con cui tu puoi trasformare una cosa piccola in un progetto di vita che sopravvive a te stesso. E secondo me Red parla nel capitolo del bonsai, è una metafora splendida della vita che racconta. Red, ti riconosci in questa immagine nel bonsai? Ma sì, nel senso che io sono andato addirittura in Giappone a studiare l'arte del bonsai, perché volevo capire questa compenetrazione della natura nella quale loro si ritrovano, e ho capito che la cosa più bella del bonsai è trovare il tempo di prendersi cura di qualcuno che, come giustamente, come dicevate voi, ci supererà poi nel tempo, perché un bonsai può vivere 200, 300, 400 anni, mentre noi, ahimè, è molto meno. E questo mi piace molto. Poi è sempre legato alla natura che io amo, perché poi insomma lì nel libro poi è spiegato i miei progetti con le scuole elementari, con gli alberi, con l'ambiente, da sempre. Trovo che il bonsai in qualche maniera ti dà la possibilità, anche se abiti in un loft a Milano e riesci comunque a dargli la luce e l'acqua necessarie, a darti quella sensazione del grande albero, della forza che bella, mi piace. Anch'io ho un bonsai e devo dire che sta abbastanza bene, cresce in un modo un po' stranetto, ma insomma. Ecco, adesso mettilo fuori fino a ottobre. Adesso fino a ottobre, sì, allora va bene. Da oggi vado a casa e lo metto fuori. Invece per Anna Salvo abbiamo scelto il biscotto. Un oggetto piccolissimo che ha dentro un gesto che cura e un gesto che ridà la luce nel buio. Lo facciamo commentare alla dottoressa Salvo, si riconosce? E piace? Mi chiami Anna, si chiama Red, chiami anche me. Va bene, Anna si riconosce? Sì, mi riconosco, perché ecco, io non condivido la passione del bonsai, perché impiego molto tempo a prendermi cura delle persone, quindi non mi resta molta energia. Però il biscotto del biscotto. Ma sì, questo sì, perché è una questione, e questo anche passaggio da alcune zone buie ad alcune zone illuminate. Allora chiudiamo e salutiamoci con queste due immagini, un bonsai ed un biscotto. Magari se volete scrivere sul nostro profilo Facebook o mandarci un'email, qual è l'immagine che più vi rappresenta? Buonissima giornata ad Anna Salvo, Red Canziana, ad Alberto Pellai e a voi che siete sempre i miei preferiti. Io vi aspetto allora lunedì dopo il GR delle 11. Per oggi è tutto, buon weekend da Nicoletta. Essere e benessere.